Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Pizzico in meno e tanta salute in più. Parlo del sale. Ne consumiamo troppo e lo facciamo spesso senza rendercene conto. E la stessa cosa potremmo dire dello zucchero. La nostra dieta è troppo dolce. Non è solo colpa dei cucchiaini che aggiungiamo al nostro caffè. Allora, oggi proviamo a prendere in esame una nostra giornata tipo e proviamo a capire se la nostra dieta è troppo dolce o troppo salata. Perché non è solo una questione di gusto, ma soprattutto di salute. 800 24 se volete intervenire con noi. Qui in studio è tornato a trovarci il professor Giuseppe Remuzzi, coordinatore delle ricerche per l'Istituto Mario Negri di Bergamo e direttore del Dipartimento tra piante agli ospedali riuniti. Professore, buongiorno, buongiorno e bentornato. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Professore, può sembrare strano che la nostra salute sia così legata a questi due ingredienti che pensiamo tutti di usare a piccole dosi, a pizzichi o a cucchiaini, ma come mai invece sono così importanti? Partiamo dal sale? Partiamo dal sale. Allora, questo mi fa pensare che lei sia un tipo più salato che dolce. Sì, sì, io non ho quasi mai mangiato dolce in vita mia. Veramente? Ultimamente qualcosina, magari una torta ogni tanto, la domenica, un pezzettino. Mai se sono da solo, per far compagnia a qualcuno. No, non mangio dolci. E io e lei ci compensiamo, perché io rinuncerei, io sono un tipo dolce, mangerei sempre un pezzetto di dolce a fine pasto, insomma, anche a me però piace mangiare dolce. Non mangio dolce, non mangio caramelle, ed è un problema anche di denti soprattutto. Allora, intanto ai nostri ascoltatori possiamo chiedere, se vogliono intervenire, anche a raccontarci se sono tipi che amano più il dolce o il salato. Certo. Ma perché noi preferiamo più un sapore piuttosto che un altro? Ma è una questione di abitudine. All'inizio l'uomo era cacciatore, raccoglitore, mangiava quello che trovava, mangiava i frutti, i vegetali, i prodotti della caccia, della pesca, li consumava come li trovava e quindi non aveva bisogno di sale, non salava. Poi l'uomo è diventato pastore, pescatore, agricoltore, c'è venuta la necessità di conservare questi alimenti, conservare la carne, i pesci, il latte, le verdure anche. Allora ecco che si è scoperto il sale e col tempo ci si è abituati al sapore del sale. Lo stesso vale per lo zucchero. Ci sono dei popoli che non salano affatto, dei popoli che non mangiano dolci e non hanno nessun problema. Siamo abituati, non è che ne abbiamo bisogno. Allora iniziamo a capire la relazione che esiste tra sale, tra pizzichi di sale e la nostra salute. Noi consumiamo 8-10 grammi di sale al giorno, ma ce ne basterebbero 1-1,5. Il punto è che molti alimenti contengono già sale, quindi non c'è bisogno di aggiungere sale quando cuociamo la pasta, per esempio. Andrebbe fatto soltanto alla fine per mettercene il meno possibile, perché la pasta ne assorbe il meno possibile. Ci accorgiamo tutti che i salumi, i formaggi, le acciughe, il baccalà, le olive, i sottaceti, le patatine hanno sale. Ci accorgiamo molto meno del pane, della pizza, dei sughi pronti, delle verdure, delle cose, certo, in scatola. La differenza tra un alimento in scatola e un alimento fresco in termini di contenuto di sale è enorme. Per esempio, i piselli in scatola contengono 600 mg di sale per 100 grammi di prodotto. I piselli freschi ne contengono 2,5. Beh, una bella differenza. C'è una differenza di centinaia di volte. In realtà quello che fa il sale è creare tutta una serie di problemi. Il sale viene eliminato dal rene, tutto quello che introduciamo in eccesso viene eliminato dal rene. Se il rene funziona perfettamente, noi non abbiamo problemi. Però c'è il 20% delle persone che hanno un'incapacità genetica di eliminare correttamente il sale. Allora in queste persone qua il sale produce pressione alta, la pressione alta produce scompenso del cuore, produce difficoltà di circolazione. Infatti la riduzione del sale sarebbe proprio una misura preventiva che farebbe evitare malattie. Se noi passassimo da 8-10 grammi anche solo a 3, che è comunque il doppio di quello di cui abbiamo bisogno, è stato fatto un calcolo negli Stati Uniti che loro risparmierebbero 120.000 morti in un anno e noi ne risparmieremmo 30.000. Loro hanno fatto anche un conto sui costi e si risparmierebbero dai 10 ai 24 miliardi di dollari. Sì, sono cifre da capogiro. Sono cifre da capogiro. Legate poi, a dei granelli di sale. Legate a dei granelli di sale. A dei granelli di sale che non dovremmo aggiungere e dovremmo cercare di evitare. Il pizzico famoso di sale non sì, serve. Non serve. Il problema è la gente dice, ma il cibo è insipido, non c'è più il gusto di mangiare. Noi non vogliamo adesso fare in modo che i radioascoltatori non abbiano il gusto di mangiare, perché questo è molto brutto. Uno non deve bere alcol, non deve fumare, non deve fare, niente. Certo, se no dicono spengo, quando c'è la Nicoletta spengo. È inutile vivere. Invece, mentre per lo zucchero, a lei può farne a meno, ma per me ad esempio? Per lo zucchero è un problema di obesità, di diabete, ma è anche un problema di cancro. C'è stato su Herald Tribune qualche tempo fa un articolo lunghissimo che aveva questo titolo: come il tabacco e l'alcol, il zucchero, lo zucchero è un altro killer. È un punto di domanda, e poi dopo, durante tutto l'articolo, si svolge questo bellissimo racconto sulla capacità dello zucchero di uccidere. Perché non proviamo a fare una domanda ai nostri spettatori? Qualcuno ha un'idea di quanto zucchero mangia una persona in media in Italia? E poi vediamo quanto mangia una persona in Europa. Vediamo se qualcuno si avvicina. Volentieri, 800 24 00 24 e abbiamo già un ascoltatore che è vicino, magari sa già darci la risposta. Salvatore da Treviso, buongiorno. Buongiorno, ma per lo zucchero io direi che circa 30 grammi ce li facciamo fuori in giorno, fra quello che c'è dentro, in quello che mangiamo e quello che ci aggiungiamo noi. Sì, lei dice 30 grammi al giorno. Penso proprio di sì. Professor Remuzzi, intanto Salvatore, lei ci ha chiamato per? Allora, io sono un camionista, però sono anni che faccio da mangiare. La settimana scorsa io sono stato a casa, se non che preparavo da mangiare per tutta la famiglia inglese del peso, siamo in due persone. Sì. Quindi, fra le varie pasta asciutta, pasticci, erbe cotte, erbe in lentegame, tutte quelle cose lì, a fine settimana guardo il vaso del sale, 250 grammi di sale usato. Mi sto suicidando, gli ho detto a mia moglie. Sua moglie dirà: Salvatore, non cucinare più tu, faccio io. No, ma veramente, difatti ho ridotto le dosi, perché se uno fa da mangiare una volta ogni tanto non se ne accorge. È vero. Ma se uno fa costantemente da mangiare, se ne accorge, vede quanto sale usa. E questo io suggerirei alle signore che ascoltano. Grazie. Guardate, Salvatore, quanto sale cucinate. Lei mi fa da grillo parlante, perché a me piacerebbe, magari poi da settembre lo strutturiamo bene, avere in ogni trasmissione è un grillo parlante, cioè un ascoltatore che ci suggerisce qualche cosa di buono da fare. Salvatore, io la nomino il grillo parlante di oggi, perché ci ha dato un'indicazione molto utile e voglio farla con dalla nostra prossima ospite, che è la dottoressa Paola Reverso, che è in linea con noi, medico, nutrizionista e presidente dell'associazione Il Me Più Te. Buongiorno dottoressa Reverso, bentornata. Buongiorno Nicoletta, buongiorno professore Remuzzi. Buongiorno. Allora Salvatore, il nostro grillo parlante di oggi ci ha dato un'ottima idea. Direi proprio di sì, a parte che basterebbe semplicemente dimenticarci per un attimo del sale, che se ci pensiamo dà solo il sapore del salato, e provare a utilizzare altri alimenti che possono farci scoprire dei nuovi sapori. Quindi non stiamo togliendo qualcosa, ma possiamo vederla che stiamo aggiungendo qualcosa. E possiamo fare delle combinazioni tipo semi di sesamo tostato, timo e curcuma. La curcuma è una spezia con un sapore molto delicato e può essere usata anche dai bambini. Oppure semi di girasole, maggiorana fresca e curry. O se no semi di papavero, aneto fresco tritato e pepe bianco macinato. Fantastico! E invece dello zucchero? E invece dello zucchero, allora, se siamo degli sportivi possiamo tranquillamente usare un pochino di miele, che fornisce altrettante calorie più o meno, ma ci dà anche qualcosa in più, perché il miele contiene altre sostanze, certo, anche se in percentuali molto basse. E poi comunque ci dà sapore, perché lo zucchero anche lì ci dà solo sapore dolce, lo zucchero raffinato. Il miele ci può dare un aroma, anche perché abbiamo tanti tipi di miele. Ma non esiste solo il miele, abbiamo lo sciroppo d'acero, il succo d'agave, il malto di cereali, speciali, malto di grano, malto di riso, malto di orzo, e a seconda del tipo di malto che usiamo, anche qui abbiamo sapori e aromi diversi. E poi perché no, la frutta essiccata, abbiamo non solo l'uvetta o le albicocche, ma anche i mirtilli rossi essiccati, i datteri, possiamo tritarli e metterli nei nostri dolci, soprattutto se facciamo delle crostate con della frutta fresca, o altrimenti possiamo prendere del succo di mela concentrato e utilizzarlo per addolcire le nostre macedonie. Ma dottoressa Reverso, tutti, parte di questi consigli li trovate anche sul nostro Daily Lab, anche molte ricettine sulla sostituzione del sale, che avevamo fatto una campagna, possiamo metterla così tra virgolette, proprio questa, lo scorso autunno, in collaborazione con l'Istituto Mario Negri di Bergamo e con la dottoressa Reverso, che ci aveva suggerito delle gustose sostituzioni. Ma comunque voi continuate a frequentarci, perché oggi giocheremo molto sulle sostituzioni, ma soprattutto, professor Remuzzi, cercheremo di capire perché è importante fare queste riduzioni quotidiane. È importante perché noi non abbiamo bisogno sostanzialmente né di sale né di zucchero. L'ascoltatore di prima, Salvatore si è avvicinato. Noi abbiamo bisogno di 90 grammi circa di zucchero al giorno, ma questo li troviamo in tutto quello che mangiamo normalmente senza bisogno di aggiungerlo. Lo zucchero c'è nel pane, c'è nella frutta, c'è nella pasta, c'è nel latte. Non c'è praticamente cosa che noi mangiamo che non contiene zucchero. E arriviamo tranquillamente alla necessità, ad avvicinarci alle nostre necessità di zucchero. Però se uno prende una Coca-Cola, nella Coca-Cola ci sono, è come se prendesse 20 cucchiai di tè di zucchero. Sì. E questo vale anche per la maggior parte delle bevande, di tutte queste bevande per cui noi abbiamo il caldo adesso, allora uno beve. E questo che succede, si bevono questi lemon soda, per esempio. Mm-hmm. Ecco, queste cose contengono tantissimo zucchero ed è veramente inutile. Lo zucchero è sotto forma di fruttosio in quel caso lì, ma il fruttosio fa altrettanto male del glucosio, dello zucchero che noi mettiamo nel caffè. Allora, oggi noi vi andiamo di sottrazione, anche se la dottoressa Reverso non ci aiuterà a fare delle sostituzioni intelligenti e gustose. Per rendermi meno faticosa l'idea, ho pensato di rendere più stuzzicante questa sfida proponendovi due consigli di lettura. Uno in collaborazione con la libreria Rizzoli.it e l'altro arriva direttamente dalla libreria personale di Essere Benessere, con tanto di dedica dalla redazione. Naturalmente voi dovete mettervi in gioco. Agli amanti dello zucchero chiedo di dare i numeri, di sparare in alto. Provate a dirmi da quanti pezzi è composta la più grande collezione di bustine di zucchero, perché c'è stato un signore che ha deciso di collezionarli e ha proprio registrato il record dei primati. L'ascoltatore che più si avvicinerà a questo numero, che vi dico già è alto, potrà ricevere a casa, in collaborazione con la Rizzoli.it, il profumo dello zucchero a velo. Mentre a quelli che amano il salato, come il professor Remuzzi, chiedo di trovare non numeri ma parole per fare una breve storia che contenga almeno due modi di dire sul sale. A questo tipo salato, che troverà appunto questo mini racconto, noi faremo ricevere a casa le spezie della salute, aroma e sapore per una cucina all'insegna del benessere di Ciro Vestita. Allora intanto chiamateci 800 24 00 24 e abbiamo Francesco dalla provincia di Treviso. Buongiorno Francesco. Buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie Francesco. Molto interessante. Volevo dirle, chiedere se la mia dieta è equilibrata, perché io praticamente sale non lo uso da nessuna parte, neanche sull'acqua di cottura della pasta. Non metto sale da nessuna parte, zucchero non mangio neanche il panettone a Natale. A Natale? Uso la curcuma, uso il curry, uso l'origano, quelle cose lì per insaporire. Magari morirò prima degli altri, ma volevo chiedere se è una vita equilibrata. Questo non sappiamo, noi auguriamo sempre 100 più anni ai nostri ascoltatori, e non solamente anni di vita, ma proprio qualità di vita questi anni. Ma intanto, dottoressa Reverso, mi sembra che Francesco sia ben orientato. Direi proprio di sì, perché se fa veramente tutto quello che ha detto è molto ben orientato. Non è così difficile rinunciare al sale o allo zucchero, anche perché basta semplicemente abituarci a sentire il sapore dei cibi così com'è in, com'è in natura. Sono abitudini le nostre di aggiungere quel pizzico di sale ogni volta che cuciniamo, come ha detto Salvatore, che giustamente ha notato che poi alla fine le quantità sono tante. Il fatto di addolcire sempre tutto, il caffè, il tè, gli infusi, di abituarsi a bere delle bibite zuccherate, non è così importante, non dobbiamo viverlo come una rinuncia, ripeto, dobbiamo pensare di assaggiare nuovi sapori, di sperimentare nuovi accostamenti di alimenti. Non è poi così difficile, basta giocare un po' con la fantasia, rilassarsi. In fondo la cucina è anche un luogo di rilassamento, no? Assolutamente, io ne sono assolutamente convinta. Ma professor Remuzzi, questi il consiglio di ridurre il sale e lo zucchero vale per tutti, bambini, anziani, ma in alcuni momenti della vita vale in modo particolare? Penso alla gravidanza, sa? Vale per tutti, vale in gravidanza, vale soprattutto per le persone che hanno, abbiamo detto prima, difficoltà a eliminare il sale. Questo naturalmente si applica di più ai bambini e si applica di più alle persone anziane, però questi sono consigli che valgono per tutti. Io credo che la dottoressa abbia detto una cosa bellissima prima: non siamo qui a dire alla gente di fare dei sacrifici, dobbiamo invece dire alla gente di fare delle cose diverse. Per esempio, non usare la maionese o altre salse già pronte nei vasetti. Fare la maionese e non salarla è un'alternativa. La pizza è un elemento importantissimo, è fantastica sia dal punto di vista del gusto, ma anche dal punto di vista pizza fa bene al pomodoro, che è molto importante. Ecco, basta fare una pizza che non contenga troppo sale. Per esempio la pizza alle verdure contiene meno sale. Basta leggere le etichette al supermercato ed evitare i cibi conservati che sì, perché insomma non dobbiamo dire non si può più fare niente. Certo, fumare non si può e di alcol non se ne deve bere troppo, però la gente non ha l'idea, vogliamo lasciare la gente con l'idea che il mettere lo zucchero o utilizzare troppo zucchero o mettere il sale senza criterio, senza sale in zucca per fare un gioco di parole, di dire che... è quello lì, è come fumare. E nessuno ha l'idea che protegge, per esempio, dal cancro. Questa è una cosa che affronteremo dopo, eventualmente. Dato che non si può ridurre, ad esempio, faccia finta di avere davanti un suo paziente che dice: io, a me piacciono le cose salate, amo anche molti dolci e fumo. A che cosa devo iniziare a rinunciare? Perché tutte insieme non possiamo farla. Da che cosa comincio? Beh, intanto bisogna cominciare a rinunciare al fumo. Fumare non si deve, mai, per nessuna ragione. Una piccola quantità di alcol forse fa anche bene, su questo ci sono dubbi. La cosa che farebbe più bene di tutti è non bere affatto, anche perché c'è il problema di incidenza stradale. Però no, un bicchiere, non me lo tolga. Un bicchiere di vino rosso al giorno all'uomo fa probabilmente bene, alla donna un pochino meno. Va bene. Questo gliel'ho strappato. Però la questione del sale e dello zucchero davvero è solo una questione di abitudine. Per il sale e per lo zucchero dobbiamo educare la gente ad avere fantasia. La dottoressa è stata bravissima, sì, in questo. Dovete dare una linea in modo che uno ha una difficoltà, va in internet, chiama la dottoressa, certo, e dice: cosa faccio stasera? Le signore non sanno mai cosa fare da mangiare, perché tutte le sere bisogna sempre fare da mangiare. Da noi, certo, lo fanno ancora il nostro ascoltatore di prima. Bisognerebbe andare da Salvatore. Ecco, sulla cosa del panettone, e non sono tanto d'accordo, quello che io dico sempre alle persone che vengono da me, agli ammalati che vedo, è quando mi chiedono una dieta. Io penso che la dieta non c'è, la dieta ciascuno deve trovare la sua, e ci vuole grande buonsenso mangiare in modo vario e mangiare in modo da non aumentare di peso, sì, quella lì è la dieta. Sì. Se uno mangia in modo vario prende tutti gli elementi che servono e quindi non c'è nessun problema. Ecco, non sono d'accordo, non mangio il panettone a Natale. Una volta, ogni tanto uno può fare qualunque cosa, non c'è una cosa, la carne rossa in generale non fa bene, certo, ma se uno va a fare una grigliata con gli amici una sera, purché non sia scura troppo la carne, perché quello davvero fa male, ma non c'è problema, veramente l'alimentazione deve essere molto varia e eccedere una volta, no? C'era il carnevale, c'erano queste cose che una volta avevano proprio il senso, adesso e facciamo poi noi festa sempre, anche divertirci con le ricette che ci suggerisce la nostra dottoressa Reverso. Essere e benessere. Di zucchero, la pillola. va giù, la pillola va giù, pillola va giù, basta un poco di zucchero e la pillola va giù, tutto brillerà di più. Basta un poco di zucchero, cantava Mary Poppins, ne dobbiamo mettere poco e anche dobbiamo almeno ridurre il sale che aggiungiamo alle nostre pietanze. Sul nostro Daily Lab trovate anche i consigli della dottoressa Reverso, così come la campagna che abbiamo fatto con il Marnio Negri. Molti di voi hanno potuto ricevere via mail proprio le allegre sostituzioni, mi piace chiamarle così, e potete richiederle, noi prontamente ve le invieremo. 800 24 00 24, abbiamo Domenico che ci chiama da Brescia. Domenico, buongiorno. Buongiorno signora, a lei e ai suoi ospiti. Io volevo chiedere un consiglio, un parere. Sì. Io sto attento a tutto, non mangio, non aggiungo assolutamente zuccheri, pasta integrale, non uso sale. Sto molto attento alla tabella dell'indice glicemico dei vari cibi, mangio molta verdura in stagione, frutta di stagione, insomma, cammino sempre a piedi, evito di prendere la macchina, la prendo solo quando sono impossibilitato. L'unica cosa è che quando ad esempio faccio una pasta e fagioli, uso i fagioli in scatola. Che ma perché? Sale. Perché, Domenico? Per una questione di praticità, delle volte. E mangio le sardine in scatola. Beh, ma le sardine in scatola sono buonissime, o no, professor Remuzzi? No, che sono buone, lo so, però c'è il problema del sale. E va bene, insomma, a me pare Domenico, che se questo ascoltatore fa tutte queste cose, va benissimo, non penso che mangerà le sardine in scatola tutti i giorni. E quindi ritorniamo a quello che abbiamo detto prima, occasionalmente noi non dobbiamo essere ossessionati, occasionalmente possiamo mangiare quello che vogliamo, l'importante è variare i cibi, ma poi se c'è questa attenzione che mi sembra addirittura quasi ossessiva al sale e allo zucchero, prendersi fuori ogni tanto fa persino bene. Dottoressa Reverso, un suggerimento? Beh, intanto possiamo usare gli alimenti surgelati come alternativa agli alimenti in scatola, e i fagioli surgelati non contengono sale perché il sale viene utilizzato anche un po' come conservante. E poi basta, se usiamo proprio dei legumi in scatola, basta sciacquarli bene abbondantemente. Poi, come ha detto il professore Muzzi, insomma, cerchiamo anche di non ossessionarci troppo, magari sennò poi non si mangiano i fagioli da soli, di solito si mescolano ad altri alimenti, basta non salare il piatto. Poi rimane sempre, secondo me, la cosa importante è la qualità degli alimenti. Dobbiamo investire sia del tempo che del denaro nella ricerca della qualità, perché se si usano alimenti saporiti, buoni, è difficile che poi abbiamo necessità di aggiungere sale, spesso lo aggiungiamo perché il cibo sa di poco. Perché però in alcuni momenti del mese, mi scrive Aurora, le donne, soprattutto in prossimità del ciclo mestruale, le donne hanno più desiderio di dolce? Dottoressa no. Reverso. Ma io credo sia una questione soprattutto psicologica, parlo anche come donna, perché ne sentiamo forse di più il bisogno, ma non credo sia proprio l'organismo, perché capita anche a me. Sono delle voglie strane. Ma sì, è una situazione psicologica, una questione di abitudine, una questione di cultura. È come il caffè, una tazzina di caffè per qualcuno concilia il sonno e a qualcuno non fa dormire. Se a uno gli fai bere la stessa cosa e non dici che caffè, magari dorme lo stesso. 800 24 00 24, vi ho chiesto di sparare in alto, di dare i numeri, perché vogliamo sapere da quanti pezzi è composta la più grande collezione di bustine di zucchero, e vi ho chiesto anche di trovare le parole, scriveteci una breve storia che contenga almeno due modi di dire sul sale. 800 24 00 24, un numero verde che vale per chi ama il dolce, che per chi ama il salato, due consigli di lettura diversi, uno che arriva dalla libreria personale di Essere Benessere, Le spezie della salute, e invece per lo zucchero in collaborazione con la libreria Rizzoli.it, Il profumo dello zucchero a velo. Giovanni da Latina, buongiorno. Buongiorno, un buongiorno a tutti quanti. Buongiorno. Allora, io pensavo che il nostro amico è arrivato almeno a 12.500 bustine. Cali, Giovanni. Devo calare, allora non deve calare. Emanuela, allora, dalla provincia di Trento, buongiorno. Io avevo detto 5 milioni. No, Manuela, siamo lontani, siamo proprio acqua, dovete scendere. Roberto, dalla provincia di Benevento, buongiorno. Buongiorno, no, io avevo dato un numero ancora più alto, 47.000 bustine. No, allora sparate in basso. 800 24 00 24, Roberto, il suo era un intervento legato solo alle bustine o a un... è caduto Roberto, è scappato con il numero delle bustine. Professor Remuzzi, ma tutta questa preoccupazione per lo zucchero e per il sale è una preoccupazione dei giorni nostri o... perché... In realtà è una preoccupazione molto antica. C'è un articolo pubblicato sul New York Times del 19 aprile 1913, quasi 100 anni fa precisi. L'anno 21 sono 100, fra due anni sì. Sono 100 anni precisi. E questo articolo faceva vedere, per esempio, quante tonnellate di zucchero consumano gli americani tra il 1909 e il 1910 in un anno, e sono 3 milioni e 300 mila circa tonnellate. Questo è un numero assoluto, è molto difficile dare un significato ai numeri assoluti, ma lo confrontavano con il consumo della Gran Bretagna ed era 1 milione e 700 mila tonnellate, della Russia 1 milione e 100, della Germania ancora meno. E l'aumento in un anno del consumo di zucchero in Europa era dell'8% e negli Stati Uniti era del 113%. Caspita! E i risultati li vediamo adesso. Uguali, c'è preciso, un'obesità. Non abbiamo fatto, ma c'è un'obesità anche dei bambini e un'incidenza di diabete negli Stati Uniti che sono probabilmente la conseguenza di questa preoccupazione che il New York Times aveva 100 anni fa e che adesso è diventata un'epidemia, la cosa più drammatica. La malattia più grave che c'è negli Stati Uniti non è il cancro in questi giorni, ma è la pressione alta, lo scompenso di cuore, l'obesità e il diabete. E il cancro è probabilmente una conseguenza di queste malattie, perché gli stessi meccanismi che portano all'obesità, al diabete, alla pressione alta, sono poi meccanismi che portano al cancro, o in parte sono i meccanismi che portano al cancro. Il cancro ha una componente genetica, c'è però anche una componente di abitudine. E queste cattive abitudini alimentari, per quanto riguarda lo zucchero, per esempio, portano a una cosa che i medici chiamano insulinoresistenza, che dipende intanto dal fatto che tanto zucchero fa accumulare grassi nel fegato e questo porta a insulinoresistenza. E poi perché quanto più zucchero noi introduciamo nel sangue, tanta più insulina ci vuole per metabolizzare questo zucchero e dopo un po' uno diventa resistente all'azione dell'insulina, ha bisogno di più insulina. E l'insulina è un fattore di crescita per le cellule, c'è un fattore che si chiama proprio fattore simile all'insulina, che è un tipico fattore di crescita per il cancro. Le cellule si trasformano in cellule cancerose sotto l'influenza di troppa insulina. E quindi c'è una parentela molto stretta con ipertensione, obesità, diabete e cancro. Quindi stiamo andando molto, molto in là con questo zucchero. E tantissimo si potrebbe fare anche persino nel campo della prevenzione del cancro, stando attenti allo zucchero. Abbiamo in linea con noi Michele che ci chiama da Parma. Buongiorno Michele, benvenuto. Buongiorno a tutti. Lei è un tipo dolce o salato? Io più salato. Più salato. Sì, sì. Anche se un pezzettino di dolce a fine pasto. Dai. Ogni tanto ci vuole. Un cioccolato a fine pasto può far piacere. Michele, la sua domanda? La mia domanda era riguardo al fatto, cioè, se uno è stato abituato da sempre a una dieta, diciamo, normale per per noi, per cui con un eccesso di sale, un eccesso probabilmente di zucchero, vuole tararsi più in basso con questo, con una dieta magari appunto quasi priva di sale e ridurre molto lo zucchero. Se c'erano degli studi che ci indicavano in quanto tempo uno riesce a abituarsi? Abituarsi, dottoressa Reverso. In quanto tempo? È molto individuale, perché è un'abitudine al gusto e quindi dobbiamo tararla su noi stessi. Sicuramente dobbiamo viverla come un viaggio. È come, posso fare un esempio molto banale, ma decidiamo di andare sull'Everest, non possiamo partire e andare sull'Everest, dobbiamo allenarci per questo, per avere garanzie di arrivarci e soprattutto di tornare indietro. L'allenamento dipende da ognuno di noi. La stessa cosa, dobbiamo pensare che stiamo intraprendendo un viaggio verso uno stile di vita sano, verso il nostro benessere, per migliorare la nostra qualità di vita, per invecchiare bene, in modo sano. Quindi sono tutte mete ambiziose quanto l'Everest e quindi importanti molto più dell'Everest. Di conseguenza dobbiamo piano piano ogni giorno fare quei piccoli cambiamenti, si toglie da una parte, quindi si toglie un po' di sale, ma magari si aggiungono altri sapori e portarci piano piano verso uno stile di vita corretto. Certo che più cambiamenti facciamo meglio è. Direi che oltre all'alimentazione è anche importante introdurre un pochino di attività fisica. Questa assolutamente non deve mai mancare. Noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e poi un nuovo suggerimento: il sale e lo zucchero, invece che aggiungerli sulla tavola nella nostra dieta, possiamo utilizzarli per la nostra bellezza. Ne parliamo tra poco insieme al professor Antonino Di Pietro, che è già in linea con noi, direttore del servizio di dermatologia dell'ospedale di Inzago. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Essere e benessere. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra. Professor Di Pietro, ma che qua bisogna andare a ballare, altro che. Sempre bellissima, sapore di sale, bellissima. Adesso poi che arriva l'estate, anzi, che siamo, evviva! Vabbè. Senta professore, sì. Se questo sale e questo zucchero li usassimo per la nostra bellezza, per la nostra pelle, che dice? Ci sono moltissimi studi che parlano dell'utilità del sale e dello zucchero sulla nostra pelle, ma io ricordo che quando ero ancora studente in medicina, anzi laureando in medicina ormai 30 anni fa, frequentavo il reparto di dermatologia, ricordo gli infermieri di 30 anni fa che a volte per curare le piaghe dei pazienti, soprattutto quelle delle gambe, degli arti inferiori o le piaghe da decubito, mettevano lo zucchero sulle piaghe e si aveva una cicatrizzazione molto veloce. Questo perché lo zucchero favorisce la cicatrizzazione, ma soprattutto anche riesce a mantenere la sepsi, quindi la disinfezione delle ferite. Ci sono anche molte sostanze nella cosmetologia, nella dermocosmetologia, che vengono utilizzate e che sono di origine zuccherina, che è zucchero. La glucosamina, ad esempio, è contenuta in moltissime creme anti-aging ed è molto efficace. Ma lo stesso acido ialuronico, che noi dermatologi usiamo per migliorare le rughe, le pieghe della pelle, è uno zucchero, è un polisaccaride, è uno zucchero complesso e quindi uno zucchero. Per cui sicuramente insomma gli zuccheri aiutano. Professor Di Pietro, invece parliamo di sale, tra poco per fortuna potremo farci dei bei bagni in mare, ma il sale sulla pelle quando usciamo dall'acqua va subito tolto, lo teniamo, fa bene, fa male, arrossa, secca, nutre? Allora il sale per la nostra pelle e in particolare il sale marino e quindi i sali che sono disciolti nell'acqua di mare sono di grande beneficio e difatti esiste la talassoterapia che sfrutta appunto la proprietà di questi sali per il nostro organismo. È sufficiente restare 5 minuti nell'acqua per fare il pieno di questi sali per la nostra cute e invece conviene risciacquare l'acqua salata e quindi l'acqua marina dalla nostra pelle quando usciamo, perché in questo caso l'acqua evaporando lascia il sale con i raggi solari invece potrebbe disidratare troppo la nostra cute e in questo caso invece diventare non dannoso però un po' fastidioso. Professor Di Pietro, grazie per essere stato con noi. Nulla, le auguro una buonissima giornata. Grazie. Grazie anche a voi tutti. Davide, buongiorno da Roma. Buongiorno, salve. Io sono un medico, mi occupo di sanità pubblica e ho appena finito un turno da una parte, sto andando all'altra, ho messo Radio 24 e mi sono sentito una trasmissione che rare volte, si dicono cose che rare volte riesco a sentire con tale precisione dai colleghi, che è difficile anche a volte ai convegni, insomma, quindi volevo ringraziarvi pubblicamente, insomma, ecco. Grazie Davide, anzi ecco. Dottor Davide. Sì, grazie. Va bene, ma grazie professore Muzzi. Beh. Grazie. Dottoressa Reverso, brava. Stiamo facendo. Allora, invece io, Elena da Firenze, vi ricordo il numero delle bustine, vi ricordo le frasi, arrivano via SMS le frasi che contengono due modi di dire sul sale. Elena, buongiorno, domanda, numero, racconto, che cosa ci racconta? Buongiorno, felicissima di parlare con lei. Anch'io, mi dica. Volevo rispondere riguardo alle bustine, ne immagino 5.000. Allora, devo dire che tra quello che leggo via SMS e gli ascoltatori che sono intervenuti, i due prima di lei, è quella che si avvicina di più, Elena, per cui mi segno il suo nome, ma siamo ancora lontane, direi di calare ancora, eh? Elena, nel caso, finora è quella che si avvicina di più. Intanto vado da Marco che ci chiama da Roma. Buongiorno Marco. Buongiorno. Buongiorno. Premetto che quello che state dicendo non fa una piega, sono perfettamente d'accordo, mangio il sibi dove è calata la pressione e tutto quanto, e cucino sbizzarrendomi in spezie ed erbe aromatiche, sì. Però volevo dire che ogni tanto un pizzichetto di sale io lo aggiungo nei miei piatti, perché non è che io mangio il salato, perché per quanto ne sappia il sale è un modificatore dei sapori. Perché se metto un pizzichetto di sale nel filtrino del caffè, il caffè mi esce lievemente meno amaro. Veramente? Ed è proverò. Più gradevole. Ah, lei mette un pizzico dentro il... Se voglio, sì, perché io il caffè lo bevo amaro, no? Però se lo voglio berlo, ecco. Poi volevo aggiungere un'altra domanda, sempre se pertinente alla trasmissione. Volevo dirle, il monoglutammato di sodio, il famoso sapore umami, che ogni tanto lo uso perché mi piace, ma fa male ai centri nervosi oppure tollerabile? Non lo so, là, perché ci sono molte contraddizioni. Vediamo, perché la dottoressa Reverso può darle indicazione ed eventualmente delle idee, delle sostituzioni. Dottoressa Reverso. Allora, prima di parlare del glutammato monosodico potremmo parlare del caffè. Sì. Anziché il sale potrebbe provare a mettere un pochino di cardamomo, che è una spezia piacevolissima che rende veramente il caffè. Ma quante ne sa? Ma quante ne sa? Allora, il cardamomo al posto del sale. Oh, e già questa ce la portiamo via. Il glutammato monosodico, ci sono molti studi. E tante ipotesi, è sale, praticamente sale, è un additivo alimentare. Io personalmente non lo uso e non acquisto mai prodotti che lo contengono, e tantomeno lo consiglio nell'alimentazione dei bambini. Io lo eviterei proprio, anche perché non è necessario, è un esaltatore di sapidità. Non vedo perché dobbiamo usarlo, abbiamo tante altre alternative molto più sane. Ad esempio? Ad esempio possiamo usare come le spezie, le erbe aromatiche, ma più che altro si parla sempre di usare le spezie e le erbe aromatiche. È importante fare degli accostamenti, perché intanto accertarsi che le spezie siano effettivamente quelle che noi vogliamo acquistare, che il curry sia fatto con la miscela di spezie inclusa la curcuma, insomma che non ci sia un'aggiunta di sale nelle spezie che noi compriamo, ma basta leggere le etichette. Certo. E poi accostare, magari mettere un pizzico di spezia con un'erba aromatica secca e fresca, e quindi fare delle associazioni secondo i nostri gusti, e aggiungere anche dei semi oleosi che ci danno tra l'altro gli acidi grassi omega 3, importantissimi per il nostro sistema nervoso e non solo, per tutte le membrane cellulari, per cui sono proprio dei toccasana per la nostra salute. E poi magari anche una cosa banale che magari uno non si pensa, cambiare pentole, provare a usare anche le pentole in pietra refrattaria, che sono delle particolari tipi di pentole naturali che consentono di cuocere con pochissimi grassi. Praticamente se noi facciamo un soffritto con la cipolla, lo scalogno, il porro, la cipolla appassisce lentamente senza assolutamente abbrustolire, rilascia tutti i suoi aromi, e poi possiamo aggiungere tutti gli gli altri ingredienti, il piatto acquisterà un sapore leggermente diverso. Proveremo. Questo può aiutarci. Proveremo. Allora, è tempo di dare la linea a Francesco, che ci chiama da Vicenza. Prima di chiudere, intanto poi vi leggo la frase che ho scelto di un ascoltatore per il sale. Francesco, buongiorno. Buongiorno a lei. Complimenti per la trasmissione, solo una cosa rapida, sì. Rapidissima. Per il numero, se vuole le do prima il numero? Sì, Francesco, no? Francesco, mi dia il numero. Io 2500, dice, pensavo. E poi se mi è concesso un'osservazione, soltanto questo. È vero il sodio, attenzione, eccetera, eccetera. Io sono un uomo della strada, non capisco sto granché, ma se le dico che mia madre, 82 anni, della quale dobbiamo occuparci perché chiaramente come anziana, ultimamente abbiamo scoperto una cosa, il sodio è troppo basso, è pericoloso, il medico mi ha ripreso notevolmente, perché bisogna fare molta attenzione, se il sodio è troppo basso danneggia il cuore. Professor Remuzzi, allora intanto Francesco si porta a casa il profumo del zucchero a velo, perché il numero esatto era 2594 e si è proprio avvicinato. Angela invece rimase di sale nel vedere che l'intruglio che aveva messo sui capelli aveva dato un color sale e pepe. Si prenderà il libro Le spezie della salute. Sodio basso. Professor Remuzzi, abbiamo 30 secondi. Sodio basso è un problema, non dipende da quello che uno mangia. Sodio basso dipende dalla funzione dei reni, del fegato, del cuore. Quindi il problema del sodio basso va indagato. Allora il medico deve dire perché c'è il sodio basso. Studiamo la mamma che ha una certa età. Se ha una ragione per avere il sodio basso, correggiamo la ragione del sodio basso. Sodio basso non vuol dire mangiamo più sale, correggiamo il sodio. Grazie professor Remuzzi, grazie dottoressa Reverso, dovete venire più spesso insieme. E io ringrazio voi che ci avete seguito, siete intervenuti, grazie, sono davvero soddisfatta di voi. Appuntamento a domani. Essere e benessere.